Antò! Chi è che chi parla? David Parenzo! Oh, ciao, ciao David, come ma stai? Ma l'immortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso? Vuoi? Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, registrata, no, no, mi sto vestì, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestì, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatta i cazzi tua, no, va a far culo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, buonasera cari amici del giorno in cui Milano ricelebra la riapertura della Scala con i Big della Lirica, si torna a rivedere le stelle, una giornata storica direi per l'Italia, al via la serata inaugurale del teatro. A lei scorreggia la vagina, cara Esther? No, è possibilissimo. Ridiamo e scherziamo tutti. Lei dovrebbe fare una bella trasmissione, ridicola, piena di barzellette, ma non con tutti i spropositi che lei dice. No, è pazzo lei. Lei è meglio che va a farsi curare. Buonasera. Mi sa che la figlia non ti ha mai scorreggiato a te, Esther. Questo è il punto fondamentale. Ragazzi, questo andiamo a rintracciare un attimo. Scusami, Longoni, rintracciami questa cosa. Il suono della scoreggia della figa. Rintracciami con grande calma. Rintracciami. Non dire il cognome almeno, perché la famiglia lo ha mandato a studiare. Chi? A studiare. Longoni. Longoni lo ha mandato a studiare. E adesso si ritrova a lavorare qui in questo schifo. Con te che gli dici, trovami il rumore della cosa. Della cosa. Per a uno che ha studiato. Ma tu sei matto, sei. Distruggi. Ecco che poi c'è la fuga di cervelli. Non stupirti se poi Ramelli prende e se ne va, ad esempio, in Francia. A France 2. Ad esempio a Fast come si chiama? No, Ramelli. Adesso guarda, vado sulle mie fonti. Vado sulle mie fonti, cerchiamo l'audio, dovremmo trovarlo. Bravo, cerco bravo. Di trovarlo in HD, in alta qualità. Mi raccomando, non c'è Longoni che ha studiato per fare ste porcherie. Hai trovato? Sì, ho trovato. Non è proprio quello che cercavo, però meno male, insomma. Esatto. Insomma, questo è nel mente. Questo è questo cosa? Questa è l'esagerazione, questo è il, diciamo, l'estremizzazione. Sì, diciamo, era un campionamento abbastanza forzato. Dai, su. Però altri. Vedi. Ma ho capito, ragazzi, ma così è una cosa innaturale, così è. Sì, però dà l'idea. Scusami, Giuseppe. Che cazzo, qua c'è da rispondere alla gente, trovare i file. Ho capito, ma mettimene uno buono, no? È una cosa che sembra un. Ma scusa, lo dico così, ma io non ho capito. Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. Il collegamento da Roma, David Parenzo. Eccoci qui. Buonasera, buonasera cari amici. Apro questa trasmissione con le parole di Angela Merkel, cancelliere tedesco. Dopo il record dei 590 morti, Merkel implora state a casa. Un discorso accorato, forte, determinato della cancelliera che parla a tutta Europa. Parla alla coscienza di noi europei, ma parla alla gente. Ho voluto utilizzare questo inizio narrativo con le parole della cancelliera tedesca perché quel suo incedere verso il podio, quel suo battere le mani sul podio davanti al Parlamento, quelle sue parole forti, dobbiamo fare tutto il possibile. È la voce di una donna, è la voce di un simbolo dell'Europa, è la voce di una persona che tanto ha dato e tanto ha fatto per questa Unione Europea. Quindi grazie. Ma ti rendi conto, Alberto Gottardo in collegamento da Padova, con chi abbiamo a che fare? Con lo scendiletto della Merkel. È un leccaculo della Merkel, quotidianamente. Magari, tu vorresti la Merkel al posto di Conte. Sì, io comunque preferisco Conte, perché almeno dire, in qualche modo il Parlamento l'ha scelto. Certo. Tu vorresti la Merkel a casa tua. Ma Merkel è stata votata dai tedeschi. La Merkel, a differenza di... No, un momento. La Merkel, a differenza di Conte è stata votata dai tedeschi. Intanto questa piccola, piccola, piccola questioncina di fondo. Dopodiché, la grandezza con la quale un premier, nello specifico la Merkel, ha fatto l'appello alla sua nazione citando i morti del giorno. Cioè, non è che discutono dello sci come da noi, dello sci. Sì, ma vedi? No, la Merkel ha chiuso, fa la stessa cosa che facciamo noi. Non dovrà essere l'ultimo Natale con i nonni, ha detto Angela. Ah, mamma mia. E ha pianto. Certo, lacrime vere. Io l'ultima volta che ho visto una donna che fa politica piangere, l'hanno preso in culo 100.000 esodati. Oh, mi preoccupo quando vedo un politico salvinismo. Piangere. Ecco il salvinismo. Riforma fondamentale. Quella della Fornero, riforma fondamentale. Giù tutte e due. Allora ragazzi, io vorrei invece cominciare non dalla Merkel, di cui non ce ne frega un cazzo, poi magari parleremo di questo discorso che ha fatto eccetera, ma da questa cosa incredibile che ci stanno propinando da ieri, cioè dire questo finto razzismo del povero quarto uomo romeno ieri durante la partita di Champions League Paris Saint-Germain contro la squadra turca, il Basaksehir. È da ieri che ci stanno sbomballando i coglioni su una cosa inesistente. Questo signore, quarto uomo, va riabilitato, non cacciato, va riabilitato, certo. E promosso primo equivoco. Arbitro. Una cosa incredibile, la parola negru in romeno significa nero. Questo signore, per indicare all'arbitro l'unico nero in panchina in quel momento, una comunicazione interna veloce con l'arbitro, gli dice guarda, quel nero laggiù, non è possibile che faccia così. Quel nero laggiù dice così, ma lo dice in romeno, perché l'arbitro è romeno, negru, che significa nero. Avete rotto i coglioni con queste cazzate. È come dire, è come lascia perdere. Ma non dirlo a me, ma dirlo alla UEFA. È tutto il giorno che ci rompete i coglioni, ma questo chi? Qua verrà defenestrato. Voi che ieri dite hanno fatto bene a uscire dal campo le due squadre. Ma chi l'ha deciso? Ma come, perché questo? Hanno fatto bene? Spiegami. Puoi rispondere perché hanno fatto bene? Lascia perdere, perché hanno fatto bene? Spiegami. Juventino Laziale in servizio giù, per. Giù Parenzo non vuole rispondere. Allora, parliamo noi, Gottardo. No, Parenzo non sa un cazzo. Sì, allora, chiaro, queste squadre sono uscite dal campo. Sono uscite dal campo perché questo ha utilizzato la parola negru riferito a uno che poteva essere rosso e avrebbe detto quello con i capelli rossi, quello con le lentiggini, questo è il punto fondamentale. Queste qua andrebbero cacciate le due squadre. Cioè, se fosse riferito queste due squadre andrebbero prese detto, a calci, guarda, nel culo. Quello con l'occhiaie avrebbe detto quello con l'occhiaie. Se fosse riferito a Cruciani avrebbe detto quello con i capelli sporchi. Dai, se fosse su. Riferito a me, quello. Questo con i ha fatto una gazzarra, questo quarto, questo secondo allenatore, assistenti, cioè, dell'allenatore. Kunta Kinte, vieni qua. Dai, su, ragazzi, Kinte, ma il razzismo è un'altra cosa, una cosa seria, non è quello. L'arbitro, il quarto uomo, che dice guarda quel nero laggiù, dai su, è una puttanata, lo ha fatto per indicarlo. E se uno non se ne rende conto e sta dietro a questa massa di ipocrisia che da un giorno ci sta travolgendo, questa massa vergognosa di ipocrisia contro questo poveraccio che viene crocifisso, naturalmente, cioè questo aveva pure tentato il suicidio per altri motivi anni fa, figuriamoci adesso cosa succede. E voi che dite hanno fatto bene a uscire dal campo, ma chi l'ha deciso? Anche di chi l'ha deciso, altrimenti giù. Why sei negro? Ma negro, volevo dire a quella why sei negro, significa semplicemente, perché significa in romeno, significa nero. Perché ma non è stata la Boldrini, per identificarlo. Ma non è la Boldrini che l'ha deciso. Cioè, stai facendo passare questa cosa come del politicamente corretto, no, della Boldrini. David, non c'entra niente cazzo. La Boldrini. È evidente che non hai visto no, un cazzo. No, ma dire allora, voi, questo, che vuol dire no, voi chi? L'ho vista decine di volte. Sì, ma voi io chi? Cosa qua. Caronu dice quello, voi, chi intende? Quello, il negru della mettiamo situazione. Che è così, che mettiamo già che sia così. Bene, va bene, era mettiamo che sia così. Di ma cosa vuol dire voi? Senti, lascia perdere, l'ha deciso. No, è importante chi l'ha deciso. Ma sì, d'accordo, invece. L'abbiamo detto, no. Chi l'ha deciso. Il punto non basta. È questo. Non è la Boldrini. Da oggi, non è voi. Sì, da ieri, non è Repubblica. È da ieri che questa roba qua viene catalogata sotto razzismo. Capito? E tu vai dietro a questa cosa perché me lo hai detto tu. Oggi hanno fatto bene a uscire dal campo perché quello lo hai identificato ma come sì, nero. Lì hanno fatto bene a uscire, ma certo, è una puttanata. È una puttanata. Poi le squadre hanno preso le loro decisioni, evidentemente. Perché anche loro si sentono. E come mai? perché sono degli imbecilli. Perché sono degli imbecilli. All'arbitro perché sono degli imbecilli. Cioè le squadre sono degli imbecilli. Sono degli imbecilli, sì. I presidenti delle squadre sono degli imbecilli. Sì, perché si sono incartati. Si sono incartati. Cruciani, due punti. Poi sono degli imbecilli. No, poi ti posso dire, ci stiamo facendo dare lezioni di diritti umani, di razzismo dal signor Erdogan. Ah, questo è un altro tema. Erdogan, vero, che parla di razzismo a proposito di questo episodio, che non è un cazzo, perché quello voleva identificare una persona. Certo, e questo signore certo. va santificato. Domani gli andrebbe assegnata una partita. Invece no, diranno che non si può identificare come nera una persona. Ma se uno passa per strada e dice quel nero, qual è il problema? Non ho capito. Mica ho detto che è un pezzo di merda, ho detto quel nero. E poi alla domanda why sei negro, doveva rispondere because you are negro. Perché in romeno. Allora, quello poveraccio era spaventato. In romeno significa nero. Nero, ragazzi, vogliamo eliminare la parola nero? Vogliamo eliminare? Non si può dire quel giocatore nero, non si può dire. No, ma chi è senza che non insultarlo, si può dire. Tu lo stai dicendo, cancelliamo tutto. No, non mettermi in mezzo cose che non ho. Dai. Poi questi calciatori che ci danno lezioni, hanno fatto bene uscire dal campo queste lezioni. Perché fanno le signorine. Che fanno le signorine e poi si insultano tutto il giorno. Deve essere di esempio. Vabbè, ho capito. Quando succede, però vengono richiamati e devono essere da esempio. Fermi tutti. Ormai dobbiamo chiedere scusa pure al cesso quando caghiamo. La zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Luciani, sono appena uscito dalla mia terapeuta alle 6.35, chiacchierando del più del meno della vita. Ho guardato l'orologio ed ho esclamato: cazzo, i nani! Ti giuro che mi ha guardato con degli occhi. Alla fine le ho dovuto spiegare che cos'è la zanzara, che cosa sono i nani, che cos'è Richard. Siamo al top. Negro. Allora ragazzi, c'è un deputato di Forza Italia, se non sbaglio, che si chiama Tondo, che è stato anche presidente della regione Friuli, che era in Forza Italia, adesso è al ministro, non so, Tondo, che dice Tondo. Che andrà a pranzo da suo figlio a Natale, che in un altro comune si farà multare. Ha perfettamente ragione. Dove? Alla Camera, alla Camera. Non lo possono multare. E fa benissimo. No, certo che lo multano. Ma che c'entra? Mica va nell'esercizio delle sue funzioni del figlio. Vedrai che sarebbe una dichiarazione falsa. Studiati le prerogative. No, sarebbe una dichiarazione falsa. Ma no, prerogative parlamentari non è andare a mangiare dal figlio, però scusami. Se non hai studiato, però. No, ho capito, se sei il nipote del sindaco, ex deputato, pluridiputato della balena bianca. Della balena bianca. Della balena bianca. Deputato della balena. Della balena bianca. È disponibile, non puoi rinunciare. Deputato della balena bianca. Nipote della balena bianca. Io giorno di Natale decido di andare a pranzo da mio figlio che abita a 4 km di distanza da casa mia in un altro comune. Ci andrò anche se non sperando che prima cambiate, se no un atto di denuncia. Desidero passare Natale con mio figlio, abita in un comune diverso dal mio a 4 km. Consentite ai cittadini di muoversi e di avere pari dignità, perché uno a Roma può muoversi all'interno di 40 km, in un paesino della periferia delle terre alte, all'interno di 4 km non fa altro che passare dal prato al bosco. C'ha ragione perfettamente. A Roma uno può andare da una casa all'altra. Anche ragione, ma ha sbagliato cosa? Dire io deputato andrò a vedere farò multare dà un segnale devastante. Cioè se tutti facessero così, sai il dove, segnale come devastante, perché uno vuole andare dal figlio che sta a 4 km. Ma è una follia non andarci. Io voglio andare dai miei genitori. Ma tutti vogliono andare dai loro fratelli. Ma quello sta a 4 km sarà sua responsabilità o no? Oppure ci deve essere la pattuglia della polizia che mi controlla. Adesso ci vieni a spiegare tu, conduttore radiofonico con i capelli sporchi. E il nipote della grande balena bianca, perché tale è, dello scudo crociato. Ma quale studiato? Anch'io, assolutamente sì. Giù tutti e due. Poi si mettono a litigare. Sgarbi contro Parenzo. Iniziamo da Sgarbi. Ieri da Giordano si scatena contro Parenzo. Ma cominciamo da Sgarbi. Dovranno essere processati questi idioti, eccetera. È una malinconia che richiama soltanto la morte. Non potranno essere perdonati. Ci dovrà essere una Norimberga per processare questi idioti, i quali confondono l'assembramento di una grande città con piccoli paesi, con pochi abitanti. È una provocazione sadica e nazista. Ma tu sei nazista, esagerato, Vittorio, non esagerare. Non esagerare, no, nazista, no, come al solito. Poi dopo, piegare la volontà. Non mi mettere nei guai, nazista. Lasciami parlare, smettila, lasciami parlare. Io ti lascio parlare, ma se dici nazista lo sai appena che... comincia a parlare. Però scusami, Parenzo l'aveva già detto di Parenzo, quel ecco, maledetto, no, sì, quel fammi maledetto sentire l'ultima parte, io ho sentito soltanto, aspetta, quindi aspetta. Mi cita già qua, sì, mi cita. Sì, sì, dice insieme e a quel Giordano maledetto non di prende, ma non dice, non prende le mie difese sul maledetto, no, dopo, di Parenzo. Sì, dopo, il maledetto non l'ha sentito nemmeno, aspetta. Il aspetta. Maledetto, non le prende le difese. Dico nazista perché vogliono schiacciare la tua coscienza, la tua libertà, i tuoi desideri. La gente è umiliata, è mortificata. È nullificata, ha paura, comunicherò solo paura, non speranza. Ha ragione, dai, ogni giorno ci sono i menagramo in televisione, lo sappiamo, che annunciano la terza ondata continuamente, avete rotto il cazzo. Ma annunciate in la terza ondata voi tutti i giorni a dire che questa eri quello ondata. Che diceva che non ci vai sarebbe stata la seconda, tu, la terza ondata. Tu eri quello che dicevi che non ci sarebbe niente. Stata ho detto, la seconda, che non ci sarà. Ho detto no, speriamo, anch'io dico speriamo, ma eri quello che dicevi ma non figure. Ci sarà niente, dicevi menagramo, a quei medici che dicevano attenzione, come non mi ricordo, manda in onda, rimanda, io mi ricordo perfettamente. Devono dare speranza, devono consentire che quelle cose che sono possibili si possano fare, non proibire tutto. Sono dei delinquenti. Tu sei non me la no, delinquenti dire. No, non Vittorio non mi mettere nei siamo guai, che generano tanti di guai. Siamo non tutti dire nazisti, non dire case. Delinquenti. Non dire nazisti, non dire perché delinquenti. Non devo dirlo? No, perché non devo dirlo? Perché no, non perché dirlo. Delinquenti e perché non si non può devo dire. Dirlo? Perché non si può dire delinquenti? Comunque, questo è abbastanza incredibile, che nella trasmissione di Giordano dove succede tutto, di tutto, dove succede di tutto, non si può dire delinquenti, che è chiaramente una cosa metaforica, non è delinquenti, diciamo, abituali di quelli che commettono. Non si può dire. Non si può dire nazisti, però può dire capezzone, può dire vergogna, capezzone, cioè, ma incredibile, però questo non è un governo, sono degli ordini, sono all'interno di un Parlamento in cui faccio l'opposizione da solo, sono tutti intimiditi dalla retorica, dalle finzioni, il Covid, gli infermieri, i medici. Vai a vedere la realtà nei piccoli luoghi, vai a Casole d'Elsa, vai a San Gimignano e ci sto andando, guarda Vittorio, io sto facendo questo, non ti incazzare con me, sto facendo questo e tutta la sera. Ecco, che arriva... non faccio altro, proprio per questo adesso ti guarda dico, come ti porto. Siamo tipo, in prigione. Siamo tipo in prigione. Ferma lì, Vittorio, torno da te dopo. Però se parlo con quel demente di Parenzo, dice, come ti permetti di guardare... Ma lascia stare Parenzo, non insultare Parenzo. Ma perché devi citare? Cosa chi se ne frega di Parenzo? Sì. Vittorio, ti ringrazio. Ti ricordo che ci sono ancora 500 morti al giorno. E vive l'incubo di quello che non c'è. Idiota, molto, povero cretino, molto, rovinato nel molto, cioè, guarda, mentre stiamo parlando 18:54, l'ufficio legale è stato già attivato. Ma su che? Ma su che già... Ma su chi? Mario su Giordano chi? Non mi ha difeso, ad esempio. Io faccio causa a Daniele Silvio Berlusconi. Via, sì. Io gli faccio smontare il traliccio di Cologno. Il traliccio di Cologno stanno già andando lì i pretori, sai, il vecchio procuratore, i procuratori della Repubblica. Daniele, andando lì con la Guardia di Firenze, stanno smontando pezzo a pezzo il traliccio. Dimmi Daniele, dimmi. Senti, allora io questa volta sono totalmente scusa, in contatto, sono in diretta alla radio, ti chiamo tra due minuti. Dimmi Daniele, dimmi, no, è quel coglione che parla al telefono, dimmi. Non ti sei regolato perché tu sei arrogante, ma non ti puoi permettere di dire certe cose in una trasmissione pubblica. Esatto. Quale sarebbe? Perché che cosa voglio parlare dell'arbitro rumeno. Allora, il razzismo, l'emarginazione, il bullismo sono la stessa cosa. Tu non puoi dire ma tu sei scemo, che... Ma tu sei, dici sul serio oppure no? Dici sul serio oppure no? Sei totalmente imbecille. Sei un imbecille totale. Sei un idiota totale. Bravo, sei un idiota. Sei un idiota. Sei un idiota. Sei un idiota. Non gli ha detto negro di merda. Sei un idiota. Ma che razzismo, Marco da Milano. Marco da Milano, direttore, buonasera. Grazie per aver chiamato. Il direttore dell'Espresso. Dimmi, direttore. Buonasera, direttore. Dimmi, Marco. Crux, io dimmi. Non capisco una cosa, cioè bella, ma non è Marco da Milano questo. Dimmi, veloce, vai. Parenzo, sono Chirichetto, Gottardo, sono Ottuso. Ma io mi chiedo una cosa, ma nel 2020, in questo momento, ma come cazzo fai a utilizzare un termine che anche nella tua lingua di merda strizza l'occhio a quella end word? Cioè io ti faccio smettere di allenare, Marco, ma se io se tu sei un coglione, perché sei un coglione, io ti dico, ma per indicare quella persona là, dico quello è un coglione, guarda, dico all'arbitro, guarda quel coglione lì, capito? E la stessa cosa, se tu avessi i capelli rossi, certo, non so che capelli hai, ti dico, guarda, quello è i capelli rossi, quello è nero, perché è un dato di fatto che è nero, lo vogliamo eliminare. Fermi tutti. La Zanzara. Guagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800240024, oppure se volete mandare un facile messaggio, coppa WhatsApp 393-7171-701. Mi sto immaginando un mondo fatto di soli Parenzi e mi sto di conseguenza anche chiedendo con che tipo di corda mi attaccherei a penzolare sotto un ponte? Bella domanda, consigli? Garbone che offende David a fuori dal coro e Giordano che lo difende. Parenzo, manutengolo della verità. Allora voi fate quello che volete, ma io voglio andare a cena con Francesco da Firenze, il puttaniere di Rimini, e Old But Gold, il grillino palermitano. Organizzatemi sta tavolata per Natale. Ciao. Ragazzi, la buffonata continua. I giocatori del Paris Saint-Germain e del Basaksehir si sono inginocchiati alzando il pugno in segno di solidarietà con la campagna antirazzismo. Bello. Durante, prima la partita, prima dell'inizio della partita, bello, c'è una campagna antirazzista, però. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? È un bel segnale. Ma cosa c'entra, David? Ma ti rendi conto? Non c'entra un cazzo. Ma cosa vuol dire quello? C'è in tutto il mondo, sempre, continuamente, va benissimo. Diciamo, evviva, una buona occasione. Ma cosa c'entra? Ma nasce da una follia. Nasce da un povero Cristo. Cristo, evviva, che viene crocifisso. Voi siete razzisti nei confronti di questo povero signore. Ma questo signore adesso non lo so io. Sì, non lo sai, ma tutto nasce da quello. Ma guarda che c'è un'ipocrisia incredibile. Ma io faccio come Felti, ma io non lo so. Perché Felti lo chiami e non sa di dire, ma io non lo so. Ma io non lo so, ma io non so niente. Dai, su, ma è una cosa vergognosa. Tra l'altro, voglio segnalare, ma questo Gottardo lo sa benissimo, che questi signori turchi dovrebbero fare la campagna contro se stessi, perché hanno l'espressione massima, l'espressione massima di un signore che si chiama Erdogan al potere, e questi qua si inginocchiano per fare gli antirazzisti, questi qua. Pensa cosa hanno combinato in Armenia questi qua, per esempio, giusto per fare un esempio. Senza dubbio, dai, senza dubbio. Su ragazzi, dai. Recentemente in Siria o in Kurdistan. Non c'è dubbio, ragazzi. Non c'è dubbio. L'immensa Bernardini De Pace, l'avvocato Bernardini De Pace, caro Parenzo, che tu hai attaccato l'altro giorno. No, non mi permetterei mai. Che tu hai attaccato dicendo che aveva detto una puttanata. No, quando, non è possibile. Quando no, in un'intervista. No. Quando in un'intervista ha sostenuto che Genovese andrebbe torturato in carcere, sì, come è stato fatto, sai, con la sua, sai, con la sua, alla sua, sai, vittima. Sai questa stessa cosa. L'avesse detta un'altra persona, sicuramente mi sarei ferocemente scagliato. Trattandosi dell'avvocato Bernardini De Pace, principe del foro, uso una certa cautela nel definirla puttanata. Nel senso che la definisco magari come dire una stortura, piccolo. Cioè, un l'espressione piccolo giusta incidente. Sarebbe una puttanata. Allora, in un contesto normale direi puttanata mega galattica. Ma anche quando ha detto che la ragazza. Fammi ripetere, in ogni caso. Sì. Trattandosi però, nello specifico, perché il caso specifico va analizzato, dell'avvocato Bernardini De Pace. Per non sapere nel leggere. Non saperne, bravissimo, né leggere né scrivere, essendo alla vigilia del Natale, avendo già una serie di procedimenti in corso per colpa di questa trasmissione, dico che forse è un pensiero che andrebbe un po' un attimo risistemato in qualche modo, andrebbe comunque smussato. Questa mattina smussato. È tornata sull'argomento. Andrebbe senti smusso. Che cosa dice, ragazzi. Anche la signora insiste, sul caso, sul caso della violenza sessuale subita dalla diciottenne a casa del signor Genovese. Voglio anche aggiungere, come sapete tutti, probabilmente chi si informa, chi legge ogni tanto, eccetera, anche chi non sa un cazzo, che questa ragazza diciottenne, per carità, lo stupro, la violenza psicologica, la cosa tremenda, eccetera, pochi giorni fa è andata a pranzo con gli amici dell'Aguzzino e si parla di un risarcimento di 5 million, 5 million, 5 milioni di euro. E cosa vuol dire sta roba? No, sto dicendo semplicemente che non voglio dire la stessa frase che ha oggi scritto signor Feltri. Vergognosa. Che fra poco vi vengo a dire. No, però vergognosa. Certamente i principi passano in secondo piano quando si parla di quattrini. Stai parlando di una ragazza che non ha famiglia, come sai, la ragazza. Ma che c'entra questo, scusa? No, voglio dire, stai parlando di una ragazza che purtroppo è molto sola. Ma che non c'entra? Ha famiglia. Non lo so, non mi interessa. No, che c'entra? Devi sapere chi è. Ma che c'entra? Cosa fai? Non ma è giornalista tu o no? Ma che c'entra? Scusa, che c'entra? È una persona cioè, sola. Se è una questione di principio, io a pranzo con gli amici dell'Aguzzino non ci vado. Ma non cioè, c'è se quello dubbio. È un Aguzzino, ma è un torturatore. Cosa vuol dire? No, ma io sto dicendo che io. Ma se, questo se giustifica sono... questa porcheria, te la leggo. Procede il massacro di Genovese. Scrive Feltri. Mentre inizia la corsa ai risarcimenti. Ho il sospetto che lo stupro sia una ricca fonte di reddito. Lo cioè stupro dice, come ricca fonte. Tre stronzate in tre righe. Tre righe, tre stronzate. Procede il massacro di Genovese, quando di massacro non si tratta, ma si tratta di un criminale beccato con le mani nella marmellata che ha fatto un crimine terribile, quindi non c'è nessun massacro di Genovese. Ho il sospetto che lo stupro sia una ricca fonte di reddito, seconda immane stupidaggine, lo stupro come fonte di reddito, cioè aberrante anche solo averlo pensato, tant'è che qualcuno, un bravo giornalista italiano, ha commentato così il tweet post prandiale del direttore di Libero. Ma questo sei tu, ho detto un grande giornalista italiano, aspetta, adesso vai, diciamo chi è. Grande, un grande giornalista italiano ha commentato. De Pace. Le donne potrebbero evitare molti stupri. Responsabilizzare una ragazza non significa colpevolizzarla. Il MeToo ci tratta da dementi. Sì, certo, sono ribadisco e sono d'accordo. Uno non si mette nella condizione dove forse potrebbe esserci un rischio. Però io non mi riesco a immaginare una di 18 anni che ha voglia come una pazza di droga, perché in queste feste c'è droga in cambio di sesso, quindi sono già pronte a dare il sesso come prezzo della droga. Poi succedono questi orrori perché ci sono degli uomini ancora più distrutti dalla droga, ma se non vai lì non ti succede. Se tu ti metti nella condizione di farti stuprare perché vai in mezzo a gente pessima, è diverso che se tu non ti metti. Lo stupro fa sempre schifo, lo stupro deve essere assolutamente sanzionato, è una cosa. Ma nessuna donna si mette nelle condizioni di farsi stuprare, ma sì, cosa dice queste, Anna Maria? Queste. Una è responsabile se si mette nelle condizioni, è diverso dall'essere colpevole. Le donne non sono colpevoli, sono responsabili di non avere evitato. Vabbè. Per te puttanate, naturalmente, Davide. Per te puttanate. Guarda, non sarei così tranchant, perché l'avvocato Bernardini De Pace è donna di grande esperienza e conosce mille casi. Guarda. Ma cioè, se per un secondo conto, se l'avesse detto se Salvini un una cosa di questo tipo, cosa avrebbe detto Parenzo? Se per un secondo se l'avesse detto Salvini una cosa di questo tipo, cosa avrebbe detto Parenzo? Avrebbe detto avrebbe sparato, avrebbe sparato ad alto zero. Però l'avvocato Bernardini De Pace fa il suo mestiere, sta illustrando quelle che potrebbero essere delle attenuanti in un caso di un processo penale, no, che probabilmente non arriverà mai, non perché ci sono cinque palancone di mezzo che effettivamente buttano, se le prende la ragazza ed evita così a Genovese il processo penale, buttano una luce completamente diversa su tutta la vicenda. Va bene, Olivier da Pavia, vai Olivier. Sì, pronto, mi senti? Dimmi Olivier, dimmi. Sì, allora, veramente io sono scandalizzato. Da che cosa sei scandalizzato? Da quello che sta dicendo lei. Ma su che? Ma su lei che ha degli amici neri tra, non lo so, tra le sue conoscenze? Ma certo, assolutamente sì. Sì, è capita che lei dice negro ai suoi amici? No, perché li conosco. Appunto perché li conosco. Allora, lei appunto perché li conosco. In rumeno, ma perché li conosco? No, cioè, lasciami parlare. Ma che lasciami parlare? Perché li conosco? Perché non ho bisogno di dire quel nero lì, perché lo conosco. Allora, è rumeno, nero vuol dire nero. Negro, non hai capito niente. Vuol dire negro nessuno. insulto. No, allora, no, chiedi no, ai ragazzi rumeni no, di chiamare. Ti stai sbagliando. Allora, io ho verificato prima di chiamare. No, no, no, ti stai sbagliando, amico mio. L'espressione usata, l'espressione in rumeno utilizzata da parlare il l'espressione non è un migrante. Che ne sai che è un migrante questo qua? No, il migrante. Allora io sto dicendo. Ma di dove sei tu? Di dove sei tu? Google e verifichi. Nero vuol dire nero. Abbiamo già verificato, Olivier. La parola, allora, la parola, vuol dire che mi insulta, la parola utilizzata dal quarto uomo ieri sera non è un insulto, è un insulto. Vabbè, allora lo sai tu, lei lo sai è tu. La sua parola contro la mia. Ma non è la sua parola contro la mia, è di tu. Allora perché lo pretendi lei che quello che dice lei è ma perché è così? So, la parola negro in romeno non è un insulto, significa è nero. È un insulto perché l'uomo nero in rumeno è nero. Sì, vabbè. Senti, allora, l'altra cosa che volevo dire, perché lei con questo atteggiamento. Di dove sei tu, Olivier? Io sono italiano. Sì, lo so, ma di dove sei di origine? Sì, io sono di Pavia. No, ma di origine, dove sei? Di dove sei? Perché vuole sapere dove sono nato? Ma perché non è mica un delitto, non è mica un. No, allora gli dico, sono nato in Camerun. In Gabon? In Camerun. Ah, Camerun. Perché non lo dici allora, subito? Volevo dire. Tu allora, si deve vergognare. Stai incentivando. Lasciami parlare. La mia moglie, regolarmente, quasi ogni settimana, si viene insultata porca nera. Ma da chi? L'altra volta a Rozzano stava prelevando la macchinetta del bancomat, l'hanno data alla sporca negra. Perché ma che queste c'entra? Persone, ai neri, ai maschi hanno paura di insultare. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? C'entra perché lei sta incentivando, lei sta passando sotto banco una cosa che è grave. Ma cosa sto incentivando? Sì, ha detto nero, ha detto nero, ha detto nero. No, molto bene. Le garantisco, Cruciani. Ma questo qua è esperto di romeno. È esperto di romeno. Hai trovato uno che ti sta sotto, ti sta mettendo sotto. Bravo. Se dà del nero a qualcuno, va in direttissima e condannato. Ma ancora via. Allora, questo qua è esperto di romeno. Questo qua è esperto. Questo qua non andrà mai a fine. Questo qua ti permette di sdoganare la parola negro. Ancora insiste. Non ho sdoganato niente. Ha detto nero. Nero, tu non sei esperto di. Perché negro vuol dire è un insulto. Lei chiama tutti i neri d'Italia, chieda loro. Ma non è negro, ha detto nero, è una follia. Nero, non è che non sei esperto di romeno. Io sono folle, non sappiamo più interpretare. È un camerunense esperto di romeno. È Cruciani che ci deve dire cosa vuol dire. No, lo dicono tutti, cretino. Ciao. Ti ha messo sotto. Molto bene, totale. Allora, Alessandro Conte da Torino. Supera la prova messa alla camera. Giù, Alessandro da Torino. Giù. Ciao, Alessandro. Sono Alessandro, quello che doveva andare a Cuneo. Ah, dalla fidanzata, sì, ci sei andato poi? Ci sei andato? Abbiamo scappato 3 giorni fa. Bene, ottimo. Cioè, tu hai. Allora, sei andato contro il DPCM, naturalmente. No, no, ti dico solo una cosa: da quando tu mi hai dato il là, io e lei ci siamo visti 4 volte. Non dico se sono andato io o se è venuta lei, ma 4 volte siamo andati in centro a Torino a fare shopping. Poi lei è venuta da me. Cioè, avete violato il DPCM, tranquillamente. Certo, sì, ma questo bisogna fare, ragazzi, ha fatto benissimo Alessandro. La radio della Confindustria, l'istigazione a commettere degli illeciti. No, certo. Cruciani, sei quello che ha dato il via e lei non voleva, era titubante. Io ho detto: ascolta, dobbiamo alzare la testa dopo un mese e mezzo, o scopriamo o io ti tradisco. No, ho detto. Ma, Alessandro, hai fatto benissimo. Ma questo è un ricatto. Sì, questo ricatto è inaccettabile. Ma io e lei stiamo un po' parlando di rapporti un po' più aperti. Allora io gli ho detto: guarda, che questo sarà la goccia che farà traboccare. Però il vaso, al di là di questo, Alessandro, tu hai fatto benissimo. Fa bene raccontare tutte queste cose in diretta. Comunque, bravo, complimenti. Tu hai fatto benissimo per un semplice motivo, perché questa cosa folle che la tua fidanzata è a Cuneo, tu sei a Torino, e questa cosa qui che voi non vi potete vedere per i provvedimenti del governo è inaccettabile. Per cui hai fatto benissimo. Ma non è che è il governo che è cattivo, c'è una pandemia. Ma non c'è nessuno, sì, c'è, certo c'è, che c'è. No, c'è la pandemia, ma non c'è bisogno. Parenzo, tu sei il classico coniglio che fa il forte coi deboli e debole coi forti. Certo, come mai certo, l'altra settimana con i napoletani li leccavi il culo e non gli dicevi ti porto via tutto, ti porto ma via tutto, Fermo lì. Ma chi è sto qua? Ma che cosa vuole? La zanzara. Cruciani. Luciani, ma è possibile che io la radio debba sentire che oggi c'è lo sciopero dei dipendenti pubblici? Ma mi pigliate per il culo. Ragazzi, invece parlate del nostro settore, il settore fitness. Noi siamo dimenticati da Dio, noi siamo nella merda più totale, ragazzi. Io sono a casa, c'è una bambina di 3 mesi, ma come cazzo la mantengo? Aiutateci, ragazzi. Quale mess sì, mess no, vaccino sì, vaccino no, qual dilemma, ragazzi, è uno solo. Dopo la scissione si va col generale Pappalardo o col commissario Pino? Cazzo, io propenderei più per il commissario Pino. Beh, però è un'opinione personale, non voglio influenzare sfida nessuno. Sfida tra titani. Allora, caro Parenzo, c'è una persona che ti vuole rispondere. Sì. Ti vuole rispondere. L'avvocato Bernardini De Pace, buonasera. Ah, buonasera, sono molto avvocato. Felice che ci sia. Buonasera, buonasera avvocato. Grazie buonasera, per essere intervenuta e benvenuta in questa trasmissione. Grazie molto. Come sei? Sei veramente il suo punto. Stai zitto, giù il microfono. Il suo punto di vista è talmente interessante che io vorrei dedicare la puntata e anzi ascoltarla in assoluto e omertoso silenzio per provare a capire. Ma esattamente. Perché hai paura? Stai zitto, giù il microfono. Fa le separazioni, divorzio. Non si sa mai. Per capire esattamente il suo punto di vista, che mi è sembrato francamente un tantinello curioso, però sono pronto a stare zitto e ad ascoltarlo in tutti i suoi aspetti. Allora, grazie per aver chiamato. Partiamo da una cosa, avvocato. Partiamo da una cosa. Sì, la cosa fondamentale, che alla fine, riassumendo, è che ha detto una cosa semplicissima l'avvocato Bernardini De Pace, che quando vai a certe feste con certe persone dove si usa la droga e dove le persone vanno fuori di testa, il rischio esiste. Dunque, quella ragazza è stata. Chi l'ha detto? Scusa. No, perché vuoi farla parlare o no? Sì, dai. Chiedo scusa. Oh. Sì. Allora, scusa. Avvocato, avanti. Prego, avvocato. Allora, Cruciani, non posso stare tanto perché ho la moglie di Parenzo qua di fianco a me, devo risolvere il problema con lei, che è un problema professionale. No, ma perché? Ecco. Allora, tra l'altro chiedevo alla moglie di Parenzo che lui ha dei problemi di udito, perché mi hanno chiamato un sacco di persone, io purtroppo non la stavo sentendo la zanzara, mi hanno chiamato dicendo: ma Parenzo ha dei problemi di udito perché non capisce quello che si dice. Sì, e allora chiedevo anche a sua moglie di dire chieda avvocato, come mai mia moglie perché è lì, perché non ne può più, perché si vuole separare, questo è il punto, si vuole separare, ti farà un mazzo così. Ma no, farà... che poi quelli di Libero ci credono veramente, dai, penso che sia allora, avvocato, la cosa fondamentale è questa: che responsabilità questa ragazza secondo te? Ma no, non ha, ha la responsabilità verso se stessa, di avere mancato di rispetto a se stessa, non ha responsabilità nel processo. Ma sì, certo. Cioè lei, tutte abbiamo voluto la parità tra uomo e donna, è da 45 anni che c'è, perché ancora ci dobbiamo fare proteggere da tutti? Perché ancora dobbiamo fare le lagne e lamentarci di quello che succede? Quello che succede è una scelta nostra, certo, non è una scelta lo stupro, che è schifosissimo, è da criminali, io lo metterei in carcere e non lo farei uscire mai, ma la gente che mi dice che io dico queste cose per diminuire la pena di Genovese si sbaglia, io non la diminuirei, l'aumenterei. Se ci fosse la tortura, aggiungerei la tortura, farei qualsiasi cosa. Che vuol dire questa cosa della tortura, quando l'hai detto? È un modo di dire provocatorio, esatto. Esatto, non è che vuoi la tortura vera e propria, cioè che venga torturato, ma allo stesso modo. Ma ci mancherebbe, quello che diciamo è che la stessa cosa. È un modo provocatorio, sì, chiaro, dire però... che merita di più della pena che si merita. Invece, come sai, io voglio dirti questo, voglio chiedere una cosa. Salvini quando diceva quella bestialità del buttare via la chiave, perché ci faceva a noi sinceri democratici impressione il fatto che un ministro degli interni dicesse buttiamo quel criminale in bocca a una donna di diritto come lei, questo fa impressione. Sono imbarazzanti perché non fanno altro che esprimere buonismo e moralismo, come per esempio il movimento del MeToo eccetera. Allora la pena è una cosa seria, deve essere seria. È chiaro che se io dico la tortura è una provocazione paradossale, le persone intelligenti o che non hanno problemi di udito capiscono. È chiaro, ma detto da una persona che si occupa di diritto, lei non è la donna della strada, lei non è fuori dal coro. Ma io non ho detto di buttare via la chiave, deve avere il massimo della pena. E sa qual è l'unico modo per diminuire la pena? Adesso vi spiego una cosa che forse non avete capito. Risarcire. No, questa nuova è cambiata la linea difensiva. Prima la linea difensiva era: teniamo la ragazza via, la facciamo curare perché sta male, sta in una casa di cura, sì, come sì. Dopo, e questo, e poi vedremo nel tempo, dopo che lui sarà stato condannato, che avrà avuto tanti anni, dopo faremo un'azione, per, visto che ci saremo costituiti parte civili, per il risarcimento del danno. Invece adesso, se invece uno si... ha cambiato linea difensiva, ha fatto il contrario. Facciamoci risarcire prima, così viene diminuita la pena. Ma spiegami una cosa, Anna Maria, tu consideri questa cosa qui, l'incontro adesso, chiaramente ti parlo non da avvocato naturalmente, ma da persona che vede dall'esterno questa cosa, lascia perdere il tuo ruolo, cioè il fatto che questa qua abbia incontrato gli amici dell'Aguzzino, perché se tutti quanti lo consideriamo un mostro, questo qua, un Aguzzino, e anche lei dovrebbe considerarlo, perché ha detto che gli è successa una cosa tremenda. Ma non lo so, allora, o è veramente demente che non capisce, oppure è molto più furba di noi e capisce. Ma il me, l'idea che hanno i sinceri democratici e le sincere democratiche, che le donne debbano essere protette tutte a prescindere, come gli animali in via di estinzione, mi fanno orrore. Perché però, protette in quanto soggetto, no, però mi proteggo. Però, ma c'è, io c'è, ma lei, però c'è una cosa: tu lei è una signora, un professionista stimato, un grande avvocato, è ovvio che si protegge. Ma no, ma è ovvio, no? È chiaro, è ovvio, no, avvocato, su, dai, non mi faccia incazzare, no, perché sennò è chiaro. Così ci sono arrivata con questo modo di pensare. Io vengo da una famiglia meridionale dove mio padre non mi faceva uscire senza i miei fratelli. No, ma d'accordo, va benissimo, però la storia della ragazza vittima di Genovese è un po' diversa dalla sua, cara avvocato. Cioè, no, adesso... perché io non mi sono mai messa in quella situazione. Avrei, ma che c'è, ma lei mica sapeva, però scusi, mica sapeva, andiamo nel merito, la ragazza mica sapeva che sarebbe finita così e che sarebbe stata violentata. No, però sapeva che avrebbe fatto sesso e si sarebbe trovata. E che ne sappiamo noi? E chi ne sappiamo perché noi? Quelle feste sì, le fanno solo, ma questo, ma non è lotto, ma non hai detto, ma che tutte le persone che... sapeva, ma c'erano una ventina di ragazze, non è che tutte sapevano che avrebbero fatto sesso. Ma nel momento in cui entri in qualsiasi posto e ti tolgono il cellulare, ci resti? Ma che vuol dire? No, ma ragazzi, ma lì è una festa di VIP. Ma no, io non ci resto, però mettiamoci nei panni di, c'è una festa di VIP in un posto stratosferico. Non era di VIP, non c'era, no, di VIP, di personaggi VIP, nel senso di persone molto molto benestanti, no, e questo non voleva che la sua casa finisse su Instagram, uomini, magari. No, ma d'accordo. Scusi, non per, però la questione dei cellulari anche a me all'inizio ha fatto impressione. Io non sono mai andato a una festa di quel tipo. Dopodiché, no, pensare che soltanto dare il telefono, magari, no, il multimiliardario, ma non voleva di essere più che debole, la sua casa ti venisse, ma ti mette nelle condizioni, tutti di essere più debole di fronte ai delinquenti, ma che... tutti davano il telefono, che vuol dire, mica solo lei, anche gli altri maschietti, appunto lo so, pochi maschietti e tante donne. Ma che vuol dire quello? Vuol dire che c'è uno che vuole fare l'imperatore, il pascià, con tutte le donne intorno e qualche macchia, e poi sceglie, perché così avveniva, e poi sceglie la sera quella che si deve fare. Ma comunque, questo avveniva anche in altri luoghi del passato, comunque, diciamo, queste feste. Comunque, secondo te, scusa, Anna Maria, scusami, certo, secondo te, secondo te si è messa nelle luoghi politici, secondo te si è messa nelle condizioni di farsi stuprare? Si è messa in una condizione a rischio, non è che è andata pensando di farsi una condizione stuprare. A rischio. In una condizione, se io vado in un campo di mine, devo stare attenta dove metto i piedi, no? Se io attraverso, come ho scritto nel pezzo, attraverso la strada dove non ci sono le strisce, c'è tanto traffico, può essere che mi prendano. E la questione della minigonna, voglio capire la questione della minigonna. Ma non c'entra la minigonna, non è che io provoco l'omicidio perché mi metto attraverso la strada o le strisce, sono io che mi assumo la responsabilità di questa scelta del cavolo che faccio. Cioè, spiegami una cosa, ma tu fossi adesso la questione della difesa, no? Cioè la questione dell'incontro, tu avresti mai difeso una persona che vede i cosi? Hanno fatto bene gli avvocati a ritirarsi, cioè che vede gli amici dello stupratore? Cioè, è cambiata la linea difensiva, ha dimostrato di non seguire il principio, forse hanno anche pensato che aveva argomenti diversi e obiettivi diversi, è un avvocato che individua un certo modo di fare, una certa strategia, e vede che la cambia, che lei non segue, via. Io tante volte. Sì, ma la questione di principio, dove va a finire la questione di principio? No, ma la questione, ma no, la questione di principio, no, è fondamentale. No, però dove va a finire la questione di principio? La questione di principio è questa: se uno pensa che ha subito uno stupro grave, se hai bisogno di sostegno psicologico, poi vai a vedere gli amici della Guzzino. Infatti, è questo che dico io. Cioè, è una cosa folle, no, ragazzi? Cioè, dove voi non entrate nei soldi, la realtà bisogna dirlo. Non chiaramente, non lo dico come Feltri, come ha scritto oggi Feltri, ma lo dico in maniera chiara. E se adesso l'obiettivo di questa ragazza sono chiaramente i soldi, mi sembra che dalla sua testa la questione dello stupro sia svanita. Ma ragazzi, il processo va avanti lo stesso. Cosa, ma il processo va avanti lo stesso. Se io subissi uno stupro, vi giuro, lo so che non mi credete, però io sono fatta così. Dimmelo. Non è che i soldi mi farebbero passare il disagio profondo, pazzesco che ho avuto. Non penserei ai soldi, vorrei che fosse condannato e che pagasse lui tutta alla la massima vita. Pena possibile. No, purtroppo sappiamo che ho un'obiezione ai vostri così. Due ragionamenti. Aspetta, primo, ma il processo andrà avanti comunque. La moglie di Parenzo è ancora là? La moglie di Parenzo dice che lui è un po' attaccato ai soldi. Quanto vuole l'assegno mensile? Questo discorso mi ha fatto una faccia. Ma l'assegno mensile quanto vuole di assegno mensile? 20.000? Quanto vuole? 20.000 di assegno mensile? No, ne vuole un po' di più, perché dice che lui fa tante cose e siccome 20.000 sono sottoposti a tassazione, gliene restano meno. Si può trattare. Io penso che ci potremmo accordare sui 27. Ma cosa dite? Ma di che parla? Una parte dei figli non tassabile, una parte tassabile invece. Se mi dovesse mai trovarmi in tribunale dall'altra parte, la signora Bernardini, ma sai cosa farei io? Cosa? Io alzerei le mani al cielo e dico: mi costituisco, portatemi in galera. Alzerei le mani al cielo. Mi spiace, ma lo devi fare. Ciao Anna Maria, perché ciao. Tua moglie è qua. Ciao Anna Maria, ciao. Chiedo scusa un momento, pubblicità. La Zanzara. Ma dovrebbero chiamare i carabinieri e farvi chiudere all'istante e arrestare il lercio topo di Cruciano Anoano. Prime vaccinazioni in Inghilterra e subito reazioni allergiche. Due. Parenzo, fatti pure il vaccino. Siamo tutti in attesa di vederti schiattare. Massimo da Milano, Gottardo, che volevi dire? Qualcosa volevi dire? Ma cosa vuoi? Volevo dire semplicemente che rimango un po' esterrefatto da parte di una donna che in qualche maniera cerca di comprendere un uomo che brutalizza non ha compreso una nulla. Ragazza. Ma che cazzo dici? Tu sei impazzito? Questo è Alberto Gottardo, lo dico per l'avvocato. Quello che sta parlando si chiama. Ma non che veramente deve Ma non ha avuto pietà nei confronti dell'uomo. Non ha avuto una parola di pietà nei confronti. Tutt'altro, ha detto che dovrebbe pagare molto di più di quello che gli daranno adesso. Ma che cazzo dici? Ma sei impazzito? Però anch'io non condivido nulla di quello che ha detto. Però, nello specifico, chi sta parlando ora si chiama Alberto Gottardo. Nello specifico, Massimo, dimmi. Si parla di droga, Gottardo spara sempre stronzate. È arrivato il genio, certo. Invece che le dice tutte dritte, dai, sentiamo. Distinguere tra droghe leggere e droghe pesanti. Perlomeno io parlo per esperienza, non perché per sentito dire o perché ti girano così le parole. Hai parlato l'altra volta di cocaina e che come si arriva all'eroina, giusto? Sì, che tu sei arrivato all'eroina? No, io non sono arrivato all'eroina, me ne conosco tanti che ci sono caduti. La cocaina sì, però. E ti garantisco che non sono partiti dallo spinello, ma sono partiti dalla sigaretta o ancora prima dal bicchierino di vino. Sì, può essere, ma ci sono i casi più disparati, amico mio. Cioè, c'è chi è passato attraverso canne, cocaina, eroina, oppure prima anche altre sostanze. C'è chi invece non ha fatto un cazzo ed è passato direttamente all'eroina. Tutto c'è. Dunque, dire come ha detto Gottardo l'altra volta: una persona che gli piace sballarsi. Io, quando avevo 13 anni, i miei amici si sniffavano la benzina per sballarsi. Sì, quindi no. se hai vissuto nella periferia di Rio de Janeiro, la benzina, si sballano con la colla. Che cazzo vuol dire? No, ma Massimo però ha ragione, cioè ha ragione allora su un punto. Ma mettiamo al bando tutto quanto, la benzina. Ma no, ma infatti benzina, mettiamo al bando ma chi è che respira la benzina? Ma di che parlo? No, qualcuno che si fa di benzina. Però Massimo dice una cosa fondamentale, che è esattamente il contrario di quello che dice Gottardo, di quello che ha detto che incredibilmente sostiene Cottano, che credo che sia l'unico insieme a Giovanardi, forse sì, Gasparri, che sostiene questa cosa. Gasparri, che si passa che chi prova la marijuana ha pazzesco, una forte probabilità di arrivare all'eroina, pazzesco, che è una cosa pazzesco, ridicola, una follia ma assoluta, talmente ridicola che non capisco perché la sostiene. Non è così forte, ma c'è una correlazione. Ma qual è la correlazione? Non esiste la correlazione, sono due sostanze diverse. Ma dillo alle madri che ho intervistato io, dillo alle decine di madri che ho intervistato io. Vive in un albergo e intervista le madri. Ma dai, per ammazzare le persone. Vive in un albergo e intervista le madri. Ma dai, io ho la tua informazione. E sì, ho perché ti hanno sbattuto fuori tua, pure dall'albergo. A differenza tua, io ho fatto un sbattuto fuori. Ma quale giornalista? Ma quale giornalista? A fare intervista alle madri. Scusa, dimmi, Massimo, dimmi. Scusami, Gottardo. Allora, scusami, chi prende a calci i cagnolini nei bar finirà per uccidere una persona? Guarda, oddio, quasi tutti i serial killer, quasi tutti gli assassini violenti, violenti e reiterati hanno fatto atti di crudeltà sugli animali prima. Quindi sei un te lo dice qualsiasi criminologo. Quindi sei un criminale, un futuro criminale te. Un potenziale, allora un serial killer molto adesso, spesso, quasi sempre, prima fa degli atti di crudeltà sugli animali. Guarda, te lo dice chiunque. Va. Anche comunque l'alcolizzato inizia con la birra. Non siamo stronzati. Bravo, Malacrino. Dimmi. Mi scrive Cristiano Malacrino, stai attento, grande autore televisivo e cinematografico. Mi scrive, aiuto regista del maestro Ferrari. Insomma, persona molto, non so se potevo dirlo, aiuto regista del maestro Alberto Ferrari, grande regista che ha fatto il film con Paolo Chescom, Luca e Paolo. Come no? Scrive, Cristiano Malacrino scrive: favorevole alla legalizzazione della prostituzione, virgola, bigotto sulle droghe leggere. Gottardo è più simile a Salvini di quanto non voglia ammettere. Assolutamente, bravo, sì, giusto, così è molto più simile a Salvini di quanto lui stesso non voglia ammettere. Non Giuseppe, c'è, posso aggiungere benissimo una cosa? Uno, dimmi, due, Massimo, tre, dimmi. Vi querelo tutti e tre. Dimmi, sì, Massimo, dimmi. Qua. Senti qua, ma io ho capito bene, questa trasmissione non si può dire negro, non si può dire frocio, no, non si può dire ebreo. Si può dire qualunque cosa, dite qualunque cosa. Non dite si purtroppo può dire che il Covid non... No, come non si può dire? Qua si può dire, come non si può dire? È l'unica cosa che si dice. Si dice solo questo. No. Sono io però, che in minoranza provo a dire il contrario, però, ma non perché però, dico il contrario. Gennaro da Caserta. Dimmi, che però si può dare della troia mentre si scopa? Sì, ma quello sì. Si può sputare in faccia alla povera partner? Ma sì, quello si può prendere cosa buona e giusta da un frocio senza essere frocio a sua volta. Beh sì, perché qual è il problema? Ma se uno piace, quella è la libertà. Se uno piace, quella è la libertà, non ho capito. Ma qual è il problema? Perché che cosa hai contro chi lo prende in culo? Non ho capito. No, non è che ho qualcosa contro chi lo prende in culo. Se lo prende in culo vuol dire che ti piace e appartiene a quella categoria. Quale categoria? Scusa, qual è la categoria? Perché se uno lo prende in culo appartiene alla categoria, chi te l'ha detto? Certo. Ma non è vero. Certo. Io conosco, è pieno di uomini che conosco che lo pigliano in culo. E io ne conosco solo uno. E chi è che lo piglia in culo? Cruciani. Sì, ma a parte che io non lo piglio in culo, ma comunque, però è il tuo desiderio. No, ho detto che non escludo nulla. Ho detto che non escludo nulla. Ti sto dicendo semplicemente che uno che lo prende in culo, ti posso assicurare che non è detto che sia gay. Tutt'altro, perché devi... Forse che non si innamora di un uomo. Ma quello è. Non è gay, non gli piacciono gli uomini, no, gli piace il cazzo. Guarda che quando tu hai la passione avere la passione per il cazzo o la passione per gli uomini è un'altra cosa. Se a te piace se a te piace il cazzo, non è detto che ti piacciono gli uomini. C'è una bella scritta a Torino alla stazione Susa che dice: non è importante come scopri, l'importante è godere. Sì, può essere, può essere. Fermi tutti, fermi. La zanzara. Io farò un documento, quanto prima lo faremo circolare, per la firma di questi personaggi illustri, lo manderemo a ciascuno di loro, per cui vedremo se queste persone veramente sono contro questo governo o se fanno il doppio gioco. Pappalardo, lo no? Manderemo al procuratore della Repubblica Nicola Gratteri di Catanzaro, perché è colui che ha detto che bisogna ribellarsi contro questo sistema politico mafioso. Ma non veramente. Lo manderemo a Robert Kennedy Jr., che è andato a Berlino e ha fatto quell'intervento straordinario contro il nuovo ordine mondiale. Lo manderemo al dottor Bacco, al dottor Tarro, al dottor Zangrillo, al dottor Montanari, al dottor Salvatore Rainò. Manderemo questa relazione in cui per la firma degli interessati all'onorevole Paragone, ad Alessandro Di Battista, al giocatore della Juventus Ronaldo, che è stato uno dei primi a dire che il tampone serviva ben poco per rilevare che la malattia del Covid. Lo manderemo a Diego Fusaro, lo manderemo a Cruciani e Parenzo, lo manderemo all'onorevole Sara Curial, lo manderemo all'onorevole Vittorio Sgarbi, lo manderemo al magistrato Angelo Giorgianni, all'avvocato Polacco. Ma io non ho capito una cosa, ma che cosa mandano? Un documento? Ma io non voglio, posso... un documento dei gilet arancioni, dei gilet. Ma io non arancioni. Voglio niente. Cruciani, Parenzo e Cunial sullo stesso livello. No, esatto, sottolineare. Ma io cosa? Querelo, ma io querelo, scusami, se la mia, il mio nome viene se il mio nome viene accostato a questi qua, io querelo, scusa. Allora abbiamo con sono noi però molto contento fermi di tutti, abbiamo con lista. Noi il direttore Penso. Di Libero, Pietro Zanaldi, buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il vero direttore di Libero, diciamolo subito. Il sì, vero io direttore. Ogni volta non capisco se Senaldi si trova in difficoltà quando Feltri precisa: ma rivolgetevi a Senaldi, quello è il direttore di Libero. Se si trova un po' in imbarazzo ogni tanto, sì, oppure no. Perché ogni tanto dice: scarica il barile sull'ottimo, sul dice buon Senaldi. Dice scarica Parenzo, il barile su buon Senaldi, che in realtà è a tutti gli effetti il timoniere del giornale. Insomma, ti trovo ogni tanto, ti trovi un po' in imbarazzo oppure no, Pietro? Ma è la puntata su di me, quindi. No, ma così, dai, per... No, no, io non mi trovo mai in imbarazzo. Non ti trovi mai in imbarazzo. Lui è mai, libero ormai, tutti no, mai in imbarazzo. Ho l'aria di uno che si trova in imbarazzo. E allora, prendiamo uno... Ma tu da ragazzo prima, no? Votavi a sinistra, no, da giovane? No, questo è un errore che non ho mai fatto. Ho frequentato e frequento ancora a lungo gente di sinistra. Anche in casa, forse. No, in casa, sì, anche in casa. Anche in casa. Anche in casa. No, poi, oddio, a me è capitato di votare alle amministrative qualcheduno di sinistra. Ah, attenzione, che, direttore però di Libero sostiene... avendo 51 anni avrò votato 70 volte, quindi... Non mi ricordo qualche volta hai votato a sinistra, diciamo. Qualcheduno di sinistra, come amministratore, forse una come la Boldrini, la voteresti mai? No, mai. No, la Boldrini no, ma la Boldrini è oltre la sinistra, secondo me. Oltre la sinistra, addirittura. Oltre, io non la consiglio. Io, se fossi di sinistra, andrei in giro a dire che la Boldrini non è di sinistra. Ma qual è il segreto di l'immagine? Volevo chiedere tanto tempo questo: qual è il segreto di guidare un giornale come Libero? Ma che vuol dire? Che cazzo ma che sei, Marzullo? Che sei? Sì, poi la domanda prima accomodante, poi ci meniamo. Qual è il segreto di guidare un giornale? No, ma io me lo chiedo spesso. Uno si sveglia la mattina e dice: cazzo, stamattina devo fare un titolo di apertura su Libero, no? Cioè, tutte le mattine, in tutte le mattine, trovare un titolo mattine, del cazzo, come dici tu. Un titolo assolutamente facile, sì, perché basta, adesso, dopo qualche anno che si fa questo lavoro, no? Tu sai, sì, benissimo che tutti gli altri faranno tutti lo stesso titolo, no? E allora tu basta che ne fai uno diverso, che non è quello che faranno tutti gli altri, che è intuitivo. Sì, per esempio, non ti è venuto in mente oggi di fare, che ne so, statali, statali pezzi di merda, bellissimo sarebbe come dice Parenzo spesso, che e come ultima domanda, poi lasciamo, e come li scegliete i vostri editorialisti e collaboratori, ad esempio, in particolare, no? C'è un tale Talent Garden, come sei? Chi è il la signora Barbuto? Un momento, ci arriviamo. Chi è il cacciatore di talenti, diciamo, che ha individuato la signora, ad esempio, Azzurra Barbuto come columnist del giornale? Ad esempio, sai che ha avuto diversi scontri, il signor Parenzo, con la signora Barbuto. No, vabbè, allora, chiaramente. Come li trovate voi esattamente? La direzione ha i suoi ha le sue firme, e poi, ovviamente, firme. Ognuno di noi mette qualcosa. Certo, benissimo. Senti Pietro, a me però, posso dire che mi sta veramente molto simpatico. Ti posso chiedere una cosa? Allora, no, allora, la cosa, sì, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa. Adesso l'attacco. Oggi il signor Feltri ha scritto: ho il sospetto che lo stupro sia una ricca fonte di reddito. Io non sei obbligato a pensarla come Feltri. No, a proposito della ragazza. Però l'ha scritto su Libero. No, però lo scriverà, perché penso che lo scriverà. No, però ecco, no, quello che dice Feltri, io sono già responsabile di quello che scrive Feltri. Ok, ma tu la condividi questa cosa o no? Di quello che scrive fuori da Libero, almeno questo no. Ma ho capito, no, ma condividi questa cosa o no? Che lo stupro può diventare fonte di reddito? A proposito della ragazza. Di reddito? No, io non condivido questo. Io penso però che la ragazza, l'atteggiamento giusto sarebbe aspettare la condanna di Genovese, dopodiché chiedere il risarcimento, costituirsi parte civile. Cioè dici, se il principio è quello che quello è un aguzzino, che Genovese è un aguzzino, certo. Non vai, allora, a pranzo, non vai a pranzo con gli amici. Beh, questo non... è evidente. Scusa, io vado a pranzo con chi mi ha portato dallo stupratore, è un comportamento insolito. Insolito. Mi piace quando una persona che vuole andare al sodo, diciamo la verità, una persona che vuole andare al sodo, che non sembra, lo dico con tutto rispetto, non sembra particolarmente provata, diciamo, no? Se vai a pranzo con gli amici della Guzzino. Diciamo che si è ripresa. Beh, però, ragazzi, vai a pranzo con gli amici della Guzzino. Facciamo dire che si è ripresa, che ne sappiamo, ma scusa. Ragazzi, vai a pranzo, va a pranzo con gli amici della Guzzino. Dai. Ma non sapete nulla della storia di questa povera ragazza, soldi. Non ha una famiglia, certo, è sola, è una persona provata. Ma non lo sappiamo, però giudichiamo i comportamenti. Ti assicuro, quello che abbiamo letto di questa ragazza, sappiamo che è una persona molto sola, non ha una grande famiglia alle spalle. E vuol dire che è sola, che non ha qualcuno che la può sostenere, capito? Anche nelle sue scelte. Però questo noi tutto lo supponiamo, perché in realtà questo noi non lo sappiamo. Allora, la cosa vera è questa, che se lei prende dei soldi per non costituirsi parte civile, in realtà aiuta la posizione processuale di Genovese non può. E ha il vantaggio di arricchirsi immediatamente. Viceversa, arricchirsi. 5 milioni di euro, ragazzi, 5.000 euro, no? 5 milioni, si parla di 5 milioni, cazzo. Arricchirsi, certo, diventare ricca, svoltare. Ma dopo quello che ha subito, ma che vuol dire svoltare? È stata stuprata, ma che vuol dire? Allora David, tu hai ragione, ma se adesso a me mi investe una macchina e io perdo una gamba, che comunque è seccante, non mi danno 5 milioni di euro. Beh, ho capito cosa vuol dire. Ma no, ma questo vuol dire me ne danno 10.000, cioè, me ne danno 20.000, cioè, tu dici che avere, diciamo, perdere una gamba è leggermente più, diciamo, non ti arricchisci. Questa qui con 5 milioni di euro si arricchisce. Ma non è che si arricchisce, è stata violentata, stuprata, tenuta segregata, capito, però, ma come ragionate? È vittima di una violenza. Io sono d'accordo, io sono contento che lei prenda 5 milioni di euro. Ma quello lo prenderà come risarcimento del danno, comunque. Questo non lo so, sono dovuti, certo, o no, però insomma è il frutto di un patteggiamento, cioè il frutto di un accordo di risarcimento, punto e basta. È fortunata che questo qua è ricco, non è frutto di un procedimento giuridico, non è che tu gli hai fatto causa e il giudice ti ha riconosciuto il danno. No, tu vieni d'accordo col tuo carnefice. Dai, su, questo è il tuo diritto. Certo, è un tuo diritto, certo, però io posso dirlo. Cioè, possiamo giudicarla questa cosa qua. Possiamo giudicarla dall'esterno questa cosa qua. Ma cioè, cosa non c'è sembra da giudicare? Se vai a c'è pranzo con gli amici di una della Guzzino, che è sola, non ha punti di riferimento, non ha genitori, non ha, questo lo sappiamo perfettamente. Cioè, ha una situazione molto complessa la vittima. Parliamo di un'altra cosa, caro Senaldi, la questione del Negru, che perché quello è veramente incredibile. Cioè, qui c'è due squadre che si inginocchiano oggi su una cosa inesistente. Cioè, questo qua, romeno, me lo confermano anche altri romeni, ha detto una cosa che significa nero per identificare una persona. Ormai qui siamo alla follia più totale. Cioè, nemmeno individuare una persona, quello è nero, detto tra l'altro non in pubblico, ma detto in una conversazione con l'arbitro, che per caso si è sentita perché non c'è il pubblico allo stadio, eccetera, eccetera. Qui si condanna questo signore andrebbe salvato. Cioè, andrebbe in questo momento salvato da questa orda incredibile di antirazzismo ridicolo che si è scatenato, o no? Beh sì, è vittima di una cosa che non ha senso e soprattutto crolla l'ultimo tempio che è il calcio, cioè adesso i giocatori possono decidere di interrompere una partita, no? Sì. Questo è un precedente clamoroso, sì, molto perché importante. Noi sappiamo che in episodi di quante volte uno dirà negro, si insulta, ma male, una donna, male infatti, sì, ma perché figlio di puttana, perché figlio di puttana non va bene, perché nero, perché diverso, in questo caso manco è successo, perché nero è razzismo, figlio di puttana non va bene, calcio ha delle responsabilità perché milioni di persone si riconoscono ma nei calciatori, ma non è successo questo, no, non ma è sto successo. Dicendo che è diverso, è chiaro che il razzismo negli stadi deve essere combattuto dalle società e dai calciatori stessi, perché sono idoli per milioni di persone. Tu sai che nel mondo del sesso di cui noi parliamo spesso qui alla Zanzara, caro Senaldi, nel mondo dello scambismo, eccetera, in realtà si utilizza moltissimo la parola black. Cioè non si dice, si utilizza, dice, ragazzi, invitiamo un black quando devi fare delle orge. No, ma questo vuol dire che i neri sono identificati. Nel linguaggio comune si usa la parola black. Il linguaggio comune è le orge, non è il linguaggio comune. Che cosa vuol dire? Linguaggio no, comune? Ma in generale la parola black passare si usa. Per linguaggio comune. Comunque, io ho letto che questo qui praticamente ne diceva di ogni, e poi comunque, sai, uno indica, uno dice quello lì di colore, il biondino, quello con gli occhi azzurri. Ma sì, è lo stesso. Ma sì, ma ragazzi, ma siamo un modo, si chiama per no, non un modo, ma è quello un modo non lo per sapeva indicare. Il nome, dice, quello è un negro, ma mica tutti sono leggono. Parte che non ha detto negro, no. Gli ha detto il ragazzo di colore, perché poi è no, vero negru, che è nero, che in è romeno negro, significa però il romeno hanno valenze diverse, quello no? Nero laggiù va a controllare chi dice è negro anche in spagnolo, no? Ma però sì, ma ha una ragazzi, valenza diversa. Se ma ti dici qual è l'apertura di domani del quotidiano, ma che questo mi diverte, che sì, voglio il titolo d'apertura di domani, sta già lavorando. No, sì. Noi domani apriamo con seguiamo, abbiamo una puntata sul caso Becciu, no? Che è una montatura giornalistica. Vabbè, ciao, ciao amico mio, ciao. Ciao, importante. Ciao, ciao. Francesco Datrani, vai avanti tutto, Francesco Datrani. Ciao Cruciani. Dimmi. Allora io mi riferisco alla questione del negro, ma tra un po', quando ci saranno le partite del calcio africano, un arbitro dirà che quella nazione bianco mi ha offeso. A questo punto dovranno, i giocatori di colore dovranno sospendere la partita. Diciamo che il razzismo nei confronti dei bianchi non è mai esistito, non è questo. Meno male, il punto è questo. Però chi è questo genio Datrani? Come si chiama questo Francesco, genio Datrani? Francesco. No, Parenzo non lo può dire, perché tra un po' pure gli arbitri suscettibili, se uno dirà arbitro cornuto, l'arbitro per discriminazione dell'arbitro sospenderà la partita. Questo non puoi dire genio Datrani che per dire questo ha anche telefonato, cioè non si è tenuto la stronzata per sé, che sarebbe una cosa naturale, ma lui ha sentito il dovere di telefonare. Posso dirti una cosa, però ha ragione quando dice che se ci fosse stato una serie di neri là, di giocatori di colore e un bianco, e quello avrebbe detto all'arbitro, avrebbe detto all'arbitro quello bianco lì, ma cosa bianco lì? Ma non lo so, ma che vuol dire? Marco da Ferrara, dai, Marco da Ferrara. Marco da Ferrara, dimmi Marco. Niente, buona serata, volevo solamente essere di supporto alla tesi di Cruciani, perché è assolutamente vera. Ma io non ho detto il contrario, chiedete come mai la UEFA ha deciso questo provvedimento, ragazzi, non dite a me. Prenzo, scusami, mia nuora è rumena, sì. A quel punto cosa ho fatto? Senti Mary, fammi una cortesia, sta polenta qua, guarda, per noi è indicare un colore. È differente, come in Italia, che noi diciamo neri e negri, che sono due cose completamente diverse, perché c'è l'offesa. Offendi un rumeno se gli dici rom, quello sicuramente sì. Sì, cioè negro non è un'offesa, significa nero. No. Significa nero, normale. Quel nero lì, quel poveraccio come lì. Come mai state, la UEFA preso, ma non state. Si è montato un caso. Ma come mai, nulla. Scusami, come mai quelli dello sport, diciamo, quelli che devono decidere, no io, perché io non c'entro niente. Perché spesso, te lo dimostra Gottardo, c'è un'idiozia diffusa. L'idiozia no, è diffusa. Perché le squadre sono le prime a essere ormai sensibilizzate fermola, sul tema del razzismo. David, si è montato un caso sul nulla. Fermola, la zanzara. Crucio, tu l'MD dovresti provare. MDMA. Te lo fa venire duro, ti fa scopare come un pazzo, ti fa durare le ore e godi il triplo. La zanzara. Mamma mia, tutti a rompere i coglioni per fare questo cazzo di pranzo di Natale. Ma che cazzo me ne frega, ma come godo, cioè non vedo nessuno, non abbraccio nessuno, baci a nessuno, sto a casa e mi faccio le canne tutto il giorno. Vaffanculo a Natale. Foggia, durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto 20.000 morti, figlio di puttana. Questo si rivolge a me. E lo sai il piano Marshall quanto ha avuto? Lo sai, figlio Marshall. Di puttana, briciole. È andato a Genova, Torino e Milano il piano Marshall, figlio di puttana che non sei altro. Tu prima o poi dovrai essere sistemato. Dovrò qualcuno essere... lo troverai che ti sistemerà per sempre. Capito? Figlio di puttana, ce che non sei altro. Precisiamo. Sì, sì, sì, ce l'ha con me. Sì, sì. Dovrai essere sistemato. Sì, sì. Dovrai essere sistemato. Sì, possiamo ricordare a costui che il piano Marshall anticipava delle merci per la produzione e a Foggia non si produceva un cazzo e ecco si produce poco professore. Dal punto di vista industriale ecco anche adesso. Possiamo professore. Ricordarlo? Professore no? Che vive in albergo, a spesato. Genova, e mangiato, Milano, ci fa la lezione su di storia vivo sul piano Marshall. Mia. Io lo trovo incredibile. Aniello da Siena. No, ma il punto non è il piano Marshall, no, è che quello che dice dovrai essere sistemato. Piano. Questo è il punto. Aniello da Siena, vai Aniello, dimmi. Buonasera. Dimmi, buonasera. Dimmi. Mi chiamo Nello, sono rumeno. Oh, benissimo, benissimo. Ecco, grazie per aver volevo chiamato. Chiarire, se è possibile, sì. La parola nero, che sì. Praticamente nero in rumeno non esiste. Esiste negru. Sì, che vuol dire, nero? Che negru, vuol dire nero? Nero non esiste in italiano. Sì, ho negru. Capito. Sì. Vuol dire colore nero. Ottimo. Ecco, fa riferimento a curva. E curva vuol dire puttana, ecco. Ah, benissimo, ok, perfetto. Sì, come però, questo era il rumeno. Però come fa a saperlo? C'era quel ragazzo dunque prima. Non è un'espressione razzista quella, no, che ha utilizzato perché, l'arbitro. Perché? L'arbitro, perché il quarto uomo, spiego, il cazzo che è. Mi spiego, per fare un'espressione razzista su delle parole molto forti in rumeno, tipo se uno vuole negru, non voglio proprio, no, ma così, ma mica perché devi offendere tu, per farci capire quale sarebbe, se uno vuole dire brutto negro di merda, come fa a esprimerlo in rumeno, diciamo? Vuol dire negro de cacat, che vuol dire negro di merda. No, ma l'espressione, dico un'espressione, ma perché bisogna usare un'espressione simile? No, sto usando un'espressione, si fa per esempio come sarebbe cornacchia di merda, ecco, ha capito? Ma perché bisogna dire queste parole? No, ma ho capito, ma non sto dicendo nulla. Come si dice cornacchia di merda in rumeno? Come si dice cioara di cacat, ecco. Come si dice gottardo di nipote cristiano? Che vuol dire? Parenzo cioro di cacca. Come si dice gottardo nipote della grande balena bianca? Ciao, come si dice? Ciao Aniello. Allora io chiamerei Tondo, che è il deputato ex Forza Italia, non so che vuole violare il giorno di Natale i provvedimenti del governo e far simultaneo, perché vuole andare a trovare il figlio che abita a 4 km. Disobbedire ogni tanto, caro Parenzo, fa bene. Non ti preoccupare, disobbedire fa bene ogni tanto. Ogni tanto fallo anche tu, fa ma bene. Ma questi non disobbediscono, questi fanno. Beh, come no, vuole disobbedire, lo dice. Pagliacciate. Pronto? Tondo, amico mio, sono Cruciani, come va? Ehi, cavolo, ciao. Parenzo, ti vuole rompere i coglioni per questa cosa che hai detto alla camera? Cioè, per questa cosa che secondo me è giustissima, che tu vuoi passare il Natale con tuo figlio. Certo. Come tutti gli italiani, mica perché lui solo fa il deputato, allora lui è speciale. Come chiunque altro, ma c'è una norma e quella va rispettata, piaccia o no, purtroppo. Vabbè, io non contesto la norma, mi autodenuncio, pagherò la sanzione, ma Natale lo passo con mio figlio. Bell'esempio, complimenti. Non ho capito, ma che deve fare? Capisce perché gli altri italiani, magari che non possono pagare la sanzione, non lo fanno e sentono un deputato della Repubblica che addirittura in un contesto, qual è la Camera dei Deputati, appunto invita a non rispettare norma. Quindi complimenti grazie, vivissimi. Ma lo fa benissimo secondo me. Scusa, perché per contestare le norme assurde bisogna autodenunciarsi o farsi mettere sanzionare. In pericolo la salute Cruciani, di tutti gli Cruciani, altri. Dimmi, Tondo, che dimmi. La Casellati e Fico hanno emanato una cosa in cui dicono che i deputati hanno libertà di movimento. Sì. Io non la voglio avere il giorno di Natale perché non potrei certo dire che faccio rappresentante istituzionale. Vado a pranzo con mio figlio, pago la multa e che ne dica il nostro amico, sono orgoglioso di farlo. Punto. No, ma infatti il punto è proprio questo. Beh, io mi vergognerei fossi lei, perché in realtà lei ha mandato un messaggio devastante all'opinione pubblica e agli italiani, quelli che appunto non lo faranno. E il fatto che sia un deputato a dirlo fa doppiamente ma male. Ma che cosa? Ma scusa, ma se la norma un è assurda. Un rappresentante del popolo. Io lo trovo incredibile. Scusami, Tondo, tu come cosa credi? Che sia assurda questa norma, che sia vergognosa, che sia una roba da cancellare? Ma è assurdo perché c'è un'ingiustizia profonda nei confronti degli italiani, perché da, in certi spazi del territorio ti puoi muovere di 40-50 km. Scusa, uno di Roma può andare a, a mangiarsi la grigliata di pesce sul litorale di Ostia perché siamo sempre all'interno dello stesso comune. Nei, nelle terre alte, nei paesi piccoli, eccetera, dove, dove ci sono delle realtà che passi attraverso delle strade assolutamente nei boschi, nei prati, per andare da un comune all'altro non lo puoi fare. E dove ci sono delle realtà di comuni che sono assolutamente intersecati uno dall'altro, penso a Milano e a Sesto San Giovanni. Ma tu non hai paura, tu non hai paura per esempio di, che ne so, di comunque di vedere tuo figlio, ma in realtà dovrebbe essere più lui ad avere paura di vedere te, cioè tuo figlio ti vuole incontrare lo stesso, cioè tu hai comunque no, non è che mi vuole incontrare mio figlio, probabilmente io provo per scatto che magari voleva stare per i cavoli suoi, tra l'altro io che voglio vederlo, comunque voglio incontrare con lui, cioè comunque te ne fotti del fatto della, della, della, del, del pericolo del Covid, diciamo. Ma io sono già stato positivo sintomatico, sono vabbè, allora eccolo. Vabbè, sono completamente guardato e quindi posso andare. Quindi, no, ma tra l'altro, fosse, tra l'altro c'è anche stato così non mi sarei mosso, certo. Tra l'altro c'è anche questo aspetto qui, cioè perché non si può, cioè uno che è stato positivo, che ha preso già il Covid, non può muoversi liberamente, spiegami. Cioè, beh, questa questo, è un'altra follia. Questa è un'altra questione, ci vorrebbe quello che si chiama il cosiddetto patentino, ad esempio, cosa che qualcuno, ad esempio, non capito, vuole perché però, pensa assurdo, che no? È assurdo. Ho capito, questo, però devi questo chiedetelo, come dice Sgarbi, al ministro Senza Speranza. Io non so perché non si possa muoversi uno che ha più il Covid. Perché ci vorrebbe una specie di patentino, peraltro, ad esempio, perché certifichi ci questa cosa. Una sorta di liberatoria, certo. E questo sarebbe corretto da fare, ad esempio. Io sono a favore, se ci fosse quello, certo, sarebbe molto però, corretto. Però secondo te lui non si deve fare. Però no, le opposizioni hanno contestato pure vabbè, quello, dicendo ma no, ma come il patentino allora serie A, serie B? No, in realtà è una cosa di buon senso, ma sarebbe da fare, certo. Io non ho capito una cosa. Sì, ma non c'entra niente col problema che ho posto io, che è quello della. No, lei non ha posto un problema, lei semplicemente, come tanti milioni di italiani, vuole giustamente vedere suo figlio, suo fratello, sua nonna, la bisnonna, non lo so chi. E quindi giustamente le vuole vedere, che è un desiderio di tutti noi, perché non è che gli altri sono cinici. Speranza è insensibile al fatto di vedere la nonnina. Anche Speranza vorrà vedere la nonnina sua, evidentemente. Anche la, la Morgese vorrà vedere la zia, la, lo zio Billy. E allora? Anche qui è strano. Evidente, non è che c'è chi vuole gli affetti e chi non li vuole, messa così è una stupidaggine, no? Mi sembra no, evidente. Ma, no, ma che cosa c'entra? Io dico che chi sta a Roma può muoversi 40 km, esatto. Io non posso muovere in 4, questa è la verità. Cioè, ma questa allora, questo il è l'ultimo. Sì, ma se scusa, tutti si muovessero come dice lei, se tutti si di spostamento. No, ma se il fatto che lei l'ha detto, se tutti facessero come dice lei, cosa accadrebbe? Scusi, mettiamo un limite, un compasso di 40 va bene, km, 50 km, va bene, e uno va si bene. Muove all'interno di quelli, può punto. Essere che lei abbia ragione, ma se tutti può essere, ho detto, non è che ho detto che non lei non ha ragione, ma se tutti facessero come dice lei? Se tutti facessero no, come dire, non succede niente, non c'è la strage il giorno dopo, come dice qualcuno, non c'è la strage, la gente no, si insomma, vede. Strage, il problema è contingentare le persone, cioè il più possibile il messaggio è state a casa. E purtroppo sì, come a me dispiace. Merkel, come la Merkel. Come la Merkel, Merkel oggi ha pianto. La Merkel oggi, citando, comunque, i, ragazzi, citando i morti, il giorno di Natale vado a trovare mio figlio. E ti fai multare. La Merkel, se non vi piace Conte, la Merkel oggi ha detto: la scienza ci implora di ridurre i contatti, dobbiamo trovare una strada. E quindi tu lei dici, dice: Tondo, la Tondo la vuole il contatto invece, no, vuole il contatto col figlio. Tondo non è la Merkel. Non mi risulta che lo sia Tondo la Merkel. Ma io che c'entra questo? Non mi risulta che Tondo sia la Merkel. Non mi risulta. Ma che c'entra? Permettetemi che io abbia più stima, ma non senza nulla togliere all'amico Tondo, della signora Merkel piuttosto che della, del compagno Tondo. Permettetevi, dico solo questo. Vabbè, ma tu puoi avere stima di chiunque, che cazzo ce ne frega. Merkel dice inaccettabili 590 morti in un giorno in Germania. Vabbè, ma parliamo chi se ne della frega? Germania, non dell'Italia. Parliamo della Germania. Parliamo della Germania. Parliamo della Germania. Vabbè, Tondo, arrivederci, varrà grazie. Di più la Merkel dice. Del signor del Tondo, del quadrato, del non so, del rettangolo, del Tondo, del, rispondi, non so poi, io. Rispondi un po' a Parenzo. No, non rispondo, questo vuol provocarmi col cazzo che mi lascia provocare. Io vado a pranzo da mio figlio, appunto. Vado a pranzo, bene, bene. E mettiamo ciao, i vigili, ciao. I vigili lungo la strada, così ciao, almeno ciao. La multiamo. La Zanzara. Gottardo, non fumate droga, non lo dice neanche mia nonna di 92 anni. Ma come cazzo sei messo? Ma ti dai una svegliata? Allora, Cruciani, per quanto riguarda la scoreggia della figa, sì. Non basta mettersi a pecorina, bisogna stare col sedere all'insù per far entrare l'aria, perché altrimenti non basta. Ecco, e per quanto riguarda il rumore, è un rumore un po' più slabrato, ecco, ma cazzo, però non sei niente, io non lo so, non sei proprio niente, meno male che sei anche un puttaniere. Ciao. No, insomma, adesso non esageriamo. Sono sposato e fidanzato da 10 anni, sì, con quella che ovviamente oggi è mia moglie, e tutte le volte che ha fatto le scorregge vaginali mi sono sentito un cazzo di Rocco Siffredi, e abbiamo sempre riso della cosa con grande comodità. Quindi Parenzo, tu che dici che chi parla di scorregge vaginali è cafone, non capisci un cazzo, perché non mi fa fare scorregge vaginali tua moglie, perché è il cazzo piccolo. Vabbè, questa adesso è un'illazione, naturalmente, questa qua è un'illazione. Dunque, alle 20:37 sono stati commessi una serie di reati, però mi concentrerò sull'ultimo, quello che abbiamo appena andato in onda, di cui tu sei correo, l'altro corresponsabile, pure, sì. correo. Cioè, reo, se uno ti dice che correo, c'è il cazzo piccolo, non correo, ho capito, è un reato questo qua, che è diffamazione. Beh, diffamazione, è diffamazione. È diffamazione. Siamo alla follia. Non c'è la mezzo stampa in questo caso. Provincia di Padova, aggravata dalla potenza del media, perché siccome il media ha più di 2 milioni di ascoltatori, è molto grave quello che hai fatto. Padova, ma io te la faccio chiudere sto giocattolino qui, sai. Dopo pronto, non chiami pronto più Fabio, Enrico, Yuri, dimmi, la musichetta, Fabio, dimmi, l'ascoltatore, dimmi. Te sì, lo faccio chiudere sta Vittorio, baracca. Se posso un attimo. Sì, scusami, grazie. Yuri, prego. Ecco, volevo dire a Cruciani, no? Cruciani, ma tuo zio, che sì, è urologo, che era primario, è morto poverino. È morto dal dolore di avere un nipote così, probabilmente. Vabbè, allora niente. Vabbè, allora che cazzo vuoi, dimmi. No, volevo dire, sì, ma lui che prostata di quale potente ha curato per farti avere quel posto in radio? No, guarda, beh, amico mio, ti posso assicurare che Purtroppo no, purtroppo ha fatto tutto da solo, guarda, purtroppo. Guarda, posso dirti, Fabio, no. Era primario dell'ospedale, no, non è più grosso ospedale di Roma. Sì, è stato uno dei medici di un importante ministro della Prima Repubblica, che è stato ministro delle comunicazioni, di più non posso dire. Sarà un ministro delle comunicazioni della Prima Repubblica. Non sono nipote di un ex sindaco di Padova, io. L'ex sindaco di Padova, uno degli uomini più potenti del nord-est, Settimo Gottardo. Sì, volevo dire una cosetta che mi ha detto. Dillo, che mi hanno detto i miei, che hanno detto. Ma non su di te personalmente, Gottardo. Dimmi. Di qualcosa di grave su mio zio, che così ti faccio querelare e prendo i soldi in eredità. La grande balena bianca. Allora dicevo, una persona che io conosco, che non posso dire, mi ha detto che negli anni '80, quando c'erano le votazioni per il sindaco qua di Padova, 40 anni fa, andava a raccattare i voti, dici, con andava a recuperare i voti in stile DC. Siccome lui si chiama Settimo di nome, lo avevano fatto un bellissimo striscione, l'hanno appeso in autostrada con scritto Settimo non rubare. Sì, ed era anche, siccome il vice sindaco si chiamava Mezza Lira, hanno scritto anche neanche Mezza Lira. Ciao, okay, vedi cosa fai, dopo allora 40 anni ridi ancora. Ciao, Mezza Lira. Mezza Lira, non mi ricordavo più che era socialista. Allora, era Mezza Lira, no? Giù, tutti e due. Allora, abbiamo in collegamento per capire di più la questione delle scorregge vaginali, ma non solo, un signore il cui nome, ovviamente un nome d'arte, è Jaffa XXX. Sto leggendo Settimo non rubare anche mezza lì. Detto il barattolo. Questo signore è porno attore, sex coach, bodybuilder, tatuatore, ce le ha tutte, soprannominato il barattolo, signor Jaffa XXX. Io, caro Parenzo, buonasera, te lo manderei una sera a casa tua, viste le dimensioni ridotte, come ha detto prima l'ascoltatore, eccetera. Lui è detto il barattolo perché evidentemente, caro Jaffa, le tue dimensioni in termini di larghezza devono essere notevoli. Sono un po', ho 19x19. Questo, ma che vuol dire un 19? 19 centimetri di larghezza è impossibile, dai, oggettivamente. No, 19... circonferenza. 19 di circonferenza. Sì, è abbastanza, è un po' più largo del tubo dello Scottex. Ma lei non si stupirà. Un po' più largo del tubo dello Scottex. Come lei, signor Barattolo, ah, del tubo dello Scottex. Non si stupirà lei, signor Barattolo. Se, diciamo così, lei non si stupirà, signor Barattolo, se domani questa conversazione non verrà riportata dal Sole 24 Ore, né tantomeno dal Corriere della Sera. Io spero che almeno lei non. Sì, per denunciarci probabilmente. Io spero che il signor Barattolo, perché adesso della mia vita tante cose ho immaginato, ma io chiedo scusa ai miei genitori pubblicamente: scusate, mi avete fatto studiare e io mi trovo qui in imbarazzante compagnia del signor Barattolo. Io vi chiedo scusa. No, ma non è possibile. Mi chiedo scusa. Se ha una circonferenza, scusami. Ecco l'altro. Il nipote del sindaco. No, perché se la geometria non è un'opinione, il grosso modo il diametro di quel cazzo lì dovrebbe essere 12 centimetri, no? No, guarda, me l'ha misurato una mia ex. 19. Sì, 19 di circonferenza. Quindi il diametro di 12, no? Il rapporto del raggio è 3,14 e quindi vuol dire che il diametro di 12. Ma che vuoi dire con questo? È tanta roba, sì, è tanta roba. Fa il pornotore, non è che fa pornotore così a cazzo di cane, come si dice. Ma la fidanzata cammina come John Wayne. Ecco, questo si entra in una dimensione interessante. Cioè dire, il dolore del sesso anale. Tu sei un Sì, e quello è un problema effettivamente per me, perché al di fuori del set è difficile trovare una partner che faccia sesso anale con me. E sul set? Sul set, vabbè, è più semplice, insomma, le donne sono più abituate, anzi oramai si porta la doppia anale, quindi è superata la... Dunque tu non hai mai trovato una pornoattrice che avesse dei problemi con le tue dimensioni, no? No, sul set no. Vabbè, naturalmente inizia e mi dice: oh, è largo, facciamo piano, però poi dopo si fa, voglio dire. E invece nella vita privata sì? Nella vita privata sì, purtroppo è un problema. Ma infatti ti dico la verità, certe volte faccio anche scouting perché mi chiamano delle ragazze che vorrebbero entrare a far parte di questo magico mondo del porno. Magico, insomma, magico. Magico. Cioè. Ma sono attirate, sono incuriosite. Allora? Diciamo che una su 10 poi alla fine riesco veramente. Ho questa ragazza che sto facendo un training già da diversi mesi. Sì. Abbiamo fatto un provino e analmente non è riuscita. In che senso non è riuscita? Non è riuscita ad accogliermi, insomma. Ah, addirittura, cioè, fino a dove sei arrivato, scusa? Come? Cioè, sei arrivato a un certo. Cioè, non ha manco provato. Non entra. L'ho fatta dormire per un mese con il plug anale nel sedere. Cioè, l'hai fatta dormire per un mese con il plug. Scusa, ma che racconti sono? Ma che roba è? Che racconti sono? Che racconti sono? L'ho fatta dormire. Cioè, qui siamo alla vigilia dell'approvazione del MES in Europa. E mi tocca sentire a Radio 24 il signor Barattolo che fa dormire una con una cosa. Ma dai, ragazzi, dai. La serietà invece di una ragazza che vuole veramente fare questo mestiere. Ma tu, a prescindere, scusami, a prescindere, tu consigli prima del sesso anale, ovviamente quando ci trova di fronte a misure di un certo tipo, anche leggermente inferiori rispetto alle tue, consigli comunque il plug anale per un po' di tempo di lasciarlo lì? No, ma dipende dai tessuti della ragazza, cioè chi è più stretto. È vero, questa è ragione, lo sai. Dalla mia esperienza concreta posso dire che effettivamente dipende moltissimo dai tessuti di una signorina. Ma io ho fatto anche anale con ragazze che hanno visto tre cazzi in vita loro, mai cioè, capito prima che volta notizia. Ed è successo bene. Lo vedi? Quindi... Lo vedi? Anche lì dipende naturalmente. Quando hai iniziato a fare porno? Due anni fa mi sembra, no? Sì, due anni fa ho iniziato. Prima aveva una vita normale? Prima aveva una vita normale. Quasi normale. Cioè, comunque, sempre la passione per la figa, quella è la base. Assolutamente, quella è la base. Infatti, secondo me, per essere un porno attore serio, devi essere già un porco di tuo. Cioè, devi essere un maiale di tuo. Cioè, Parenzo, che non è un maiale, non potrebbe mai fare l'attore porno. No, diciamo. Parenzo, tra l'altro, mi hanno detto che ci sono diversi problemi con Parenzo. Ma adesso, diciamo, come si permette, signor Barattolo? Scusi, adesso. È la prima volta che per fortuna ci incrociamo e sarà anche probabilmente l'ultima. In cosa ne sa lei, signor Barattolo? Gentile signor Barattolo. Andiamo avanti. No, non è un'intervista. Potrebbe essere molto adesso, utile. No, in che senso? È interessante questa cosa qua, perché lui consiglia spesso, dà dei consigli in una rubrica, dà dei consigli a mogli, fidanzate, donne in generale, no? Assolutamente sì. Ecco, perché ti contattano? Si chiama si chiama Rubrica Lilla, dove sì, appunto parecchie donne, neomamme, ma scrivono problemi di coppia, ma anche i bambini, cose così, diciamo. Sì. Però capitano spesso delle domande appunto inerenti alla sfera sessuale, chi non riesce a fare questo, chi ha gusti strani in quello, oppure io non sono mai riuscita ad avere un orgasmo così, o voilà. Cioè, e quindi, diciamo, lo squirting mi sembra che sia uno degli argomenti più gettonati, assolutamente sì, ogni settimana un paio di domande sullo squirting escono sempre. Ecco, tu riesci, una vecchia questione, cioè uno, qualsiasi donna lo può fare? Allora, siccome Parenzo non ha mai fatto squirtare la sua femmina, non ha mai fatto squirtare, probabilmente non ha mai fatto squirtare nessuno. Tu puoi indicargli una strada, ma io non ho intenzione di seguire nessun consiglio del signor Barattolo, ma nessuno, proprio zero. Parenzo, grazie. Però dovresti, non devi essere così rigido, però Non sono rigido, dico not in my name, grazie, si occupi delle sue, magari vorresti pure, allora spiegami questa cosa qua, che cosa bisogna fare per far squirtare una donna bene? È un fatto tecnico, cioè io ho imparato su YouTube. Su YouTube. Sì, ma bisogna allenarsi in un certo Mi è capitato un paio di volte che è capitato per caso, poi ho detto no, voglio farla capitare quando voglio. Sono andato a vedere, mi sono incominciato ad allenare e adesso è una allenare delle in che modo? Preferite. Con le ragazze a farle squirtare. No, ma allenare come? Cioè, come uno si allena? Con quale, cioè, che fai? Il braccio alleni? Che cosa? La mano? Sì, esatto, il braccio, perché è un movimento molto di spalla. Sì. Ah, di spalla, dunque, della spalla, movimento che va sostenuto con la spalla. Sì, sì, no, far squirtare non è semplice, perché alcune possono squirtare anche a freddo dopo 30 secondi, veramente. Sì. È così. Se uno è bravo, ci vuole un po', sì, naturalmente. Oppure se lei è particolarmente bravo. Portata. Sì, ma comunque ci devi mettere del tuo, perché altrimenti non la fai squirtare. Capito, Parenzo? Sì, cioè, comunque devi allenare il braccio, il gomito, devi tenere bene la posizione del gomito. Tutto. Molte grazie, sì. Allora, grazie, arrivederci. Ti consiglio, Parenzo, di andare a vedere su YouTube. Sicuro. Scusa, tu perché non ti metti a fare gigolo, che si guadagna di più rispetto al porno attore, che ormai si guadagnano 2 lire? Cioè, quando... Sì, ma infatti il porno attore in Italia... Comincia a fare gigolò. Cioè, Barattolo, allora, cazzo, 19 per 19, porca puttana, se non lo perché fai non si trova un impiego di una RSA, ma ad esempio? La mia idea era quella di... cioè, ci sono molte coppie che mi chiamano, devo dire la verità, che mi contattano. In che senso? Coppie Coppie per scopare, qualche volta ci vai o no? Non ci sono ancora andato, perché su tutte, diciamo, il lockdown ho avuto molte cose, anche perché io sinceramente mi devo fidare, che poi becchi una pazza che si la scopa a te, anche 10 cristiani per strada è capace, cioè ci sono queste. Però voglio dire, dal punto di vista proprio come aiuto, mi piacerebbe essere un sex coach di coppia, cioè, nel senso appunto coach, come toccare, come fare questo. Beh, Parenzo, per te potrebbe essere utile, torniamo a Parenzo, potrebbe essere utile. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ma tu lo vedi accanto in uno stesso letto, David Parenzo, la compagna e Barattolo. Tu nascondi qualcosa, Parenzo. Qua nascondi qualcosa. Per soldi lo metteresti a un uomo dietro, sì. No. Ma guarda, mi hanno offerto un banco. Ah, io sono gettonatissimo, tra gay e trans mi adorano. Barattolo, ragazzi. No, Barattolo. Ma anche la mascolinità. Comunque sono bello grandicello, sono 1,80 m per 115 kg quando sono bene in forma. Faccio bodybuilding da 20 anni. Beh, ragazzi, 19 per 19, Parenzo, ma 19 per 19, ma fai stasera un paragone, vai a casa. Ma secondo te mi metto con il rotolo di Scottex. Quello può essere bello, e poi fai il paragone e poi vediamo, dai. Fermi tutti, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.